Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, 8:20 minuti. Eccoci, ci siamo. Alle 8:20 minuti, 20 ottobre. Il 20 ottobre la notizia è... I Masai. No, dunque, aggiornamento. Allora, aggiornamento per par condicio. Gli Zulu sono per il no. No. C'è questa foto, spieghiamo a chi non l'ha vista, su Repubblica, di quattro Masai. Testimonial del sì per il PD. Fotografati in Kenya. Fotografati, saltano cantando sotto il ritratto di Renzi perché i papaveri sono alti. Questa è la canzone del sì, sì, con i Masai. Quindi però tu dici che per par condicio gli Zulu sono per il no. E Marte non si pronuncia perché la sonda Schiaparelli, come sapete tutti, è arrivata lì muta, non dice nulla. Marziani per ora sono astenuti. Par condicio. Va bene, queste sono le ultime. No, ma ragazzi, ma la foto dei Masai è vera, cioè io l'ho vista su Repubblica. Sapete che si vota anche all'estero. E ci sono questi quattro poveri Masai che della Costituzione italiana non sanno nulla, lo posso assicurare. No, non hai capito la sottile allusione. Masai. Ma perché lo sport è Masai salto, basta un sì. Masai, è questo il motivo per cui corrispondente PD in Kenya, perché come l'hai letta nella rassegna stampa, ha scelto Masai e basta un sì. Ci ha messo questi poveri Masai che erano lì, gli hanno detto mettetevi qui per una foto, peccato che c'era basta un sì a fianco. Masai, basta un sì. Fermiamoci qui, cari rappresentanti all'estero di qualsiasi partito, di qualsiasi. Non tanto i Masai illudere. Non votano. O votano con Obama. No, non credo che votino, no. E chi lo sa? No, non a questo credo, punto non so più che cosa dirti. Non credo che però devo dire, l'inventiva del corrispondente del PD in Kenya, come vedi, sai come si chiama? Tirito. Tirito, sembra tutta una barzelletta. Sembra una storia tra, capisci, Pirandello, eccetera. Invece sì, è vero. Tirito. Però gli Zulu hanno telefonato subito stamattina e hanno detto noi per il no, c'è poco da fare. Vabbè. Allora, detto questo, oggi, nel 1944, Milano Anonima brutalmente bombardata, 614 vittime e 189 bimbi. E siccome questa storia dei bimbi di Milano, io la conosco perché ho trasferito a Milano anni fa, ho conosciuto uno che ci ha avuto il fratellino morto quel giorno nella scuola Crispi, e quindi mi faceva piacere ricordare questa cosa, perché poi l'Italia è stata bombardata un po' come Aleppo, molto più terribilmente di quanto molti non ricordiamo, e non sono passati 200 anni. Però detto tutto questo, a chi dobbiamo fare gli auguri per il compleanno? A Giancarlo Santalmassi, che fa gli anni oggi, e a noi sta carissimo, quindi auguri a Santalmassi. Fa gli anni anche per Camillo Davigo, e poi la moglie di Rondolino, Simona Ercolani, che è una delle cape del sì, appunto è la capa della comunicazione, quindi molto probabilmente i Masai hanno avuto un incontro con la capa tribù Simona Ercolani. Santi, oggi... tra tutti i santi, Santirene del Portogallo, Sant'Andrea in Crisi, che non è il nome di un premier italiano, ma è un santo che si chiama così perché sepolto in una località di Costantinopoli dove è stato martirizzato, che si chiama Crisi. Ma soprattutto mi piace ricordare nella fauna dei santi, perché abbiamo ricordato San Lupo, San Foca, oggi, cioè, oggi è San Leopardo. San Leopardo. E siccome è un felino, per me è San Leopardo. Pensa che oltre che San Leopardo di Osimo, perché è ex vescovo di Osimo, c'è anche un Leopardino, ma lo ricorderemo quando poi sarà il suo momento. Il biglietto di San Leopardo. Diamo il numero di telefono agli ascoltatori: 800 24 00 24. Ma già ci chiamano, no? Ci sono già ascoltatori che anche da ieri sul tema Equitalia, sul tema. Ma tra l'altro abbiamo provato a chiamare il call center di Equitalia, a capire anche noi. Perché vediamo anche noi, vogliamo capire che se a c'è causa qualche... di alcune assemblee sindacali l'attesa potrebbe prolungarsi fino al previsto. Ma no! Ci scusiamo per il disagio. Benvenuti nei contact center del gruppo Equitalia. Ah, vabbè. Il servizio informativo. No, non abbiamo tempo di attendere perché insomma assemblee sindacali. Le assemblee sindacali saranno arrabbiate. No, due non so. Notizie in questo. Primo, come vedi, non sono questa i contribuenti. Ci sono assemblee sindacali. Ma anche Equitalia. Secondo, le notizie secondo le quali Equitalia non la prendono bene, finire annegati e cambiare contratto nell'agenzia delle entrate, e cioè sono un po' per traverso, come abbiamo capito dai giornali in questi giorni. Mm-hmm. Rispetto all'inizio del governo, come vedi, sono bolle. Fanno le assemblee sindacali. Niente, volevamo capire se con l'Italia, se con Equitalia, con tutte le bollette, con sanzioni che ha Oscar Giannino a casa, con More, conviene pagare, se non conviene pagare, tenercele. Non si sa, secondo me stanno compulsando religiosamente, di come direbbe Meazza, sì. Il sole 24 ore e stanno tentando di capire. Cioè, il sole chiama Equitalia per capire cosa succede. Equitalia legge il sole per capire quello perché che succede. L'esperienza, ieri facendo la trasmissione su questa storia della tassa sul contante, è che noi abbiamo tantissimi ascoltatori atterriti perché dicono: come, io non mi fido delle banche con quello che è successo, non mi fido dei titoli con quello che succede, la borsa eccetera eccetera, li tengo liquidi, adesso lo Stato arriva, dammene un terzo, perché sennò io dico che sei un evasore. Guarda, il tema è molto delicato. Guarda, tu hai detto le cassette di sicurezza oggi Libero, cos'è che titola, ci rubano anche la catenina della nonna. Vabbè, adesso non è proprio colore giornalistico, siamo andati un po' oltre forse, però ci chiamano gli ascoltatori. Non abbiamo grandissime risposte da dare perché al momento la situazione è incerta, ma sentiamo il vostro parere. Emanuele, per esempio, ci chiama da Bari. Buongiorno, Emanuele. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in merito al rapporto che c'è tra Equitalia e Agenzia delle Entrate, perché va bene la riduzione delle sanzioni, delle more, degli interessi, perché effettivamente chi ha a che fare, chi ha avuto a che fare con Equitalia, sa benissimo che già di per sé è difficile elaborare un calcolo esatto degli interessi di more e degli interessi che maturano successivamente all'iscrizione al ruolo. Ma il vero problema, quindi se mettono in pratica questa scelta, è una scelta sicuramente giusta, corretta. Il vero problema però è l'Agenzia delle Entrate, nel senso che Equitalia già oggi agisce su impulso dell'Agenzia delle Entrate. Quindi chi determina l'ammontare del credito e su chi bisogna modificare per applicare i modelli di compliance fiscale di cui tanto si sente parlare, non è certamente Equitalia che si limita esclusivamente a riscuotere le somme, ma è l'Agenzia delle Entrate. Quindi il problema le dice lì. Il problema è la riforma va fatta, non soltanto però una riforma difficile, perché non è una riforma soltanto normativa, è una riforma in termini anche di mentalità, di atteggiamento. Ma poi lei ha tanta ragione, ma non solo di mentalità, è una riforma degli incentivi. Non bisogna più incentivare, premiare sul totale del contestato, ma solo sull'incassato. Bisogna cambiare proprio la mentalità, l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate. Bisogna costringerli al rispetto della Corte Costituzionale, perché loro hanno dirigenti non nominati per concorso e dopo un anno e mezzo continuano a volerli non nominati per concorso. Quella dell'Agenzia delle Entrate è un vero banco di prova per restituire lo stato tributario al diritto e non alla vessazione. Ci chiama anche, grazie Emanuele, ovviamente, Marco da Roma. Eccoci Marco. Buongiorno. Buongiorno. Anche io volevo fare un commento su Equitalia. Per quanto la mossa, onestamente, mi sembra una mossa che ha il sapore elettorale, per cercare di acquisire un po' di gradimento. In generale non mi trovo tanto d'accordo con i discorsi che sono stati fatti ieri in merito alla necessità di discriminare tra chi non paga perché non può pagare, chi paga, chi non paga perché non vuole pagare. Io più in generale penso che bisogna avere delle regole che siano fisse, che siano stabili e che valgano per tutti. E soprattutto la discrezionalità che alcune categorie possono utilizzare, le leve che possono utilizzare per decidere di non pagare le tasse autogiustificandosi con il fatto che non le possono pagare, è una leva che metà dei contribuenti non può tirare, e soprattutto è una leva che induce una distorsione della concorrenza nei confronti dei colleghi. Però, non capisco, tra i lavoratori dipendenti chi è disoccupato e ha un ISEE bassissimo perché magari ha un'integrazione di reddito di cassa integrazione ma nient'altro in famiglia, è lavoratore dipendente ma può manifestarlo con documenti assolutamente ostensibili e che non possono essere respinti a Equitalia, esattamente come un autonomo. Dove sta la distorsione? Noi ci siamo semplicemente preoccupati di sottolineare che un conto è la situazione di chi può produrre documenti che attestano la sua mancanza di cassa per ragioni dovute alla crisi, alla mancanza di lavoro, eccetera, e rispetto a chi invece evade, ecco. Però questa cosa non divide i contribuenti, perché possono farlo anche i disoccupati che hanno un solo reddito in famiglia e che si trovano nella condizione davvero di avere difficoltà a pagare. Tutto qui. Certo. Ci chiama anche Sandra da Roma, tanti che ci chiamano su questo tema ovviamente, perché buongiorno, vogliono capire la situazione. Sandra, buongiorno. Buongiorno, guardate, a parte vi ho già detto che voi siete i miei amici e ascolto solo ed esclusivamente il Sole 24 Ore da sempre, da quando l'ho scoperto, quindi prima di Sant'Almazzi, per cui guardate, siete veramente nei miei pensieri e nel mio cuore. Ma io ho dei familiari ad Equitalia e quello che mi dispiace che con quello che succede, cioè, di nuovo c'è questa fomentazione nei riguardi di Equitalia come quei grandi artigli rapaci di qua e di là che ci si riempiono la bocca. Ma voi che siete veramente, anche Giannino che ne sa più del diavolo in fatto di economia. Che però qualche critica non la risparmia sulla rapacità. Ma non hai dipendente, io ascolto voi dalla mattina alla sera e tante volte mi ammalo e dico no, non voglio più sapere, nel senso che mi distruggo proprio. E che ci vuole, che vuole dire dal di dentro volevo di Equitalia? Dire che in passato Equitalia è stato sotto il tiro della gente, gli attentati che gli facevano. Io avevo il terrore quando mio figlio, sapevo che un parente entrava lì perché si sapeva che succedeva bombe di qua, bombe di là. Perché? Perché Equitalia passa per quello che... Ma è chiaro, infatti, bravissima, è un messaggio secondo me importante che lei manda, cioè dire i dipendenti di Equitalia che fanno il loro lavoro lì, che rischiano anche, visto anche i funzionari, ma cosa c'entra? Equitalia agisce per conto degli enti impositori, quindi sono gli enti impositori, come diceva l'ascoltatore, che determinano l'ammontare. Le regole le scrive la politica, e purtroppo al massimo se le fa scrivere dal capo dell'Agenzia delle Entrate, che è quello che stende poi i testi di legge, e questo è improprio. Ma Equitalia non c'entra niente, quindi totale solidarietà a tutti gli atti che possono essere. Poi chi lavora giustamente, che in questo clima c'è stato anche un clima in cui ci sono stati anche situazioni di appunto attentati, perché chi lavora si trova purtroppo a dover rispondere, ed è sbagliato, delle storture inaccettabili dello Stato in quanto tale, che mica dipendono da lui. Allora, caro Oscar, qua ti do anch'io una cifra. Questa cifra, 10 miliardi. 10 miliardi l'anno. Ne parleremo tra poco. Sapete 10 miliardi a cosa si riferisce? Alla cosiddetta medicina difensiva. Cioè tutti quegli atti che i medici fanno per cautelarsi da eventuali cause, che portano anche a esami inutili, esami che vengono fatti per evitare poi di trovarsi in contenziosi. Portano a medici magari di valore che sono non in condizione di esercitare perché l'assicurazione non può coprirlo, non intende coprirlo in alcune parti d'Italia perché i costi e i rischi si sono elevati tantissimo. E questo è ciò, 10 miliardi che costerebbe, secondo stime, all'anno. È una bella cifra, Se si pensa che l'intero fondo sanitario è 111 miliardi, esatto, un decimo del fondo sanitario, e poi in questo momento di manovre da 24 miliardi forse farebbero quasi la metà, comodo, no? Altro che, ma scherziamo, soprattutto andrebbero magari volti a sanare problemi ancora irrisolti nella sanità, invece che essere non voglio dire sprecati, ma destinati a una pratica difensiva che non interviene sui problemi veri, no? Esatto. Ne parleremo tra poco con un chirurgo, un oncologo, che ha scritto un libro per Sperling & Kupffer, si intitola Reato di cura, è uscito proprio da due giorni. Un libro molto intenso che racconta anche la sua esperienza personale. Libro bellissimo. Che parte da una vicenda umana, cioè una ragazza che muore dopo un'operazione per un tumore allo stomaco e i familiari denunciano il chirurgo che ha scritto questo libro e altri chirurghi. Alla fine vengono assolti, state attenti, perché io veramente sono stato colpito tantissimo da questo libro, anche per una certa attenzione che ha tutto questo fenomeno, ma il libro non solo è leggibilissimo dal punto di vista di come è scritta, tutta la vicenda, davvero con grandissima empatia della malata, della sua morte, delle due operazioni e poi del processo. State attenti, non c'è nessuna intenzione né una sola parola contro la famiglia. e tutto sul ridicolo di un processo, ridicolo, l'intollerabilità di un processo che va avanti perché i tecnici, i periti eccetera non sono minimamente in grado di valutare davvero che cosa avviene in un ospedale, cosa fanno i chirurghi, e quindi moltissimo di questa giustizia nei confronti dei medici non ha proprio le basi tecniche, e purtroppo è costosissima, va avanti nel tempo, impegna molte risorse, induce a molte pratiche appunto per difendersi dalla possibilità che ciò avvenga. Qui non è in discussione ciò che possono pensare i familiari colpiti nel lutto dalla morte di una persona malata, è in discussione come tecnicamente bisogna distinguere il civile dal penale, la corresponsione di un giustissimo risarcimento al danno dal penale appunto, come scegliere i tecnici dei pubblici ministeri e così via. Queste sono le cose su cui discutere, però il libro è veramente bellissimo, Reatto di cura mi ha lasciato senza parole. E ne parliamo tra poco, state con noi. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane, tra l'altro. Siamo qui allora alle 8:39 minuti, Oscar, vogliamo parlare di questo libro che abbiamo davanti, si intitola Reato di cura, è uscito un paio di giorni fa da Sperling & Kupfer, quindi lo trovate in libreria, e ciò che ha scritto un chirurgo oncologo dell'apparato digerente, importante ospedale lombardo, per denunciare che cosa? Beh, intanto il fatto che, partendo da una vicenda personale, cioè la morte di una paziente che ha operato per una complicanza, poi ha portato a una causa penale. E per denunciare il fatto che tutto questo comporta poi da parte di alcuni medici la diffusione di questa pratica, la medicina difensiva, cioè tutte quelle forme di esami che un medico magari dà per cautelarsi da proprio queste pratiche, da questi rischi e da queste accuse. Ma magari anche poi sottraendosi a interventi rischiosi, su cui ovviamente c'è un track record di evidenze non ancora consolidate, no? Sull'effetto delle tecniche rispetto ad alcuni aspetti che in taluni casi personali può assumere la patologia. Cioè è un freno inibitore potentissimo. Ed è anche, come scopriremo, un costo per le case dello Stato molto elevato. Il dottor Pietro Bagnoli, che ha scritto questo libro, è con noi. Buongiorno dottor Bagnoli, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato. Allora, intanto partiamo dalla premessa, perché lei lo dice in tutte le interviste, lei chiarisce sempre che il medico che sbaglia con uno sbaglio accertato deve rispondere di questo errore. Lo diciamo subito per evitare di pensare che sia una, come dire, a difesa della corporazione, della categoria. Ma lungi da me, io sono sempre stato persuaso del fatto che qualunque professionista sbaglia deve pagare proporzionatamente all'errore commesso. Questo non c'è nessun dubbio, credo che sia una regola per qualunque professione e in qualunque latitudine al mondo, lei si discute su questo fatto. Lei ha scritto questo libro partendo da questa vicenda personale, una giovane donna operata da lei e da colleghi che muore poi per complicanze e la causa, nel senso che i genitori vi fanno causa. Vogliamo partire dalla fine, questa causa poi come finisce? Finisce con una soluzione su due gradi di giudizio consecutivi perché il fatto non sussiste. Dopo quanto tempo, cioè quanto è durato questo processo? Dunque, diciamo circa 3 anni e mezzo. Direi anche rapido per gli standard di un processo italiano, insomma. Cosa significa per un medico che opera? Quindi io penso sempre questo, un medico che entra in sala operatoria ha come compito e come scopo quello di cercare di salvare una vita. Non so, ho questa deformazione che mi è stata insegnata e ho sempre questa idea ben inculcata in testa. Guardi, la morte è compagna della nostra vita. Adesso, col passare degli anni, anch'io sono diventato un pochino filosofo, anche per colpa degli studi classici che ogni tanto si risvegliano in me. Però noi siamo chiamati a preservare la vita e quando un paziente si aggrava o muore nonostante i nostri sforzi, nonostante le nostre cure, nonostante il nostro impegno, è una tragedia per noi che l'abbiamo gestito e che l'abbiamo avuto la sua vita fra le mani. Detto questo, è assolutamente comprensibile il desiderio dei parenti di capire, di andare a fondo. E oggi purtroppo lo Stato italiano, la legislazione italiana fornisce tuttora questo strumento, che è quello della denuncia del processo penale. Io le garantisco, il giorno che ho ricevuto l'avviso di garanzia, pur con tutta la delicatezza da parte dell'ufficiale giudiziario che me l'ha portato, è stato un momento di morte dentro di me, perché si sente messi alla strega di un qualunque criminale, di un qualunque malfattore, un momento tremendo. E purtroppo non riesco ancora a capire, perché nessuno in realtà me l'ha spiegato veramente, perché l'Italia, paese culturalmente avanzato da tanti punti di vista, condivide questa battaglia di retroguardia di collocare la colpa medica in ambito penale con altri due paesi al mondo. Che sono? In tutto il mondo ci sono tre paesi che collocano la colpa medica Italia, in ambito penale: Italia, Polonia e Messico. Italia, Polonia e Messico. Però una ragione c'è su questo, cioè una ragione c'è, nel senso che l'interrogativo, sono Oscar Giannino Dottore, innanzitutto le ho già fatto i complimenti per il libro, stanotte non sono riuscito ad andare a dormire fino all'alba finché non l'ho finito, perché non avrei mai immaginato che lei scrivesse sia dell'intervento che del processo, quindi al di là poi delle proposte concrete che fa, con questa mano narrativa straordinaria, con rispetto per tutti, eccetera eccetera. Però la ragione c'è nella realtà, da quello che ho letto in letteratura giuridica su questo, cioè conta il fatto che in questi paesi citati la difesa della vita, per l'impronta cattolica del nostro ordinamento eccetera eccetera, non a caso Polonia, Messico, Italia, porta appunto a questa scelta del legislatore, almeno questo è quello che ho letto, lo condivido con lei. Secondo, nel libro quello che colpisce, al di là della valutazione dei familiari e al di là del fatto che c'è una riforma in corso che, per così dire, ribalta l'onere della prova, non toccherà più al medico doversi difendere di fronte all'accusa. Ecco, aspetti un secondo, ma toccherà ai familiari. Ma al di là di questo, il problema è che il processo, come si vede leggendo il libro, io invito tutti a leggerlo, il processo in realtà sta in piedi perché c'è un perito che non è all'altezza del mestiere a cui l'ha chiamato la procura e che incardina un processo, e la procura continua a non sentire niente di quello che avviene nel dibattimento dalle parti, anche dei suoi periti e dei suoi testimoni che lo smentiscono, perché c'è un perito di parte che non è all'altezza dal punto di vista proprio scientifico, dell'aggiornamento, delle cose che sono riguardate esattamente dall'intervento e da quella patologia. Allora, innanzitutto c'è il problema che dice lei, ma secondo c'è anche una giustizia che tecnicamente è proprio al di là e oltre la scelta da ridiscutere del penale, poi non è in grado davvero di assumere in termini tecnici il livello necessario per intervenire, è così o no? Guardi, io non mi permetto di dare valutazioni sulla giustizia, non era questa l'intenzione del mio libro, ma l'intenzione era quella di cercare di far sì che un personaggio come me, che fa questo mestiere, fornisca alla giustizia i mezzi migliori per poter migliorare questo stato di cose. Allora, se lei nota nella narrazione che il consulente tecnico del pubblico ministero, sì, perché questo è il nome corretto, esatto, della cosa, non è stato all'altezza del difficile compito cui era preposto, le dico che ha ragione, ma il problema è un problema medico in realtà, perché siamo noi che dobbiamo dare a coloro che medici non sono, ma che sono chiamati a giudicarci, ed è giusto che sia così, cioè è giusto che siano persone non mediche a giudicare i medici, dobbiamo però fornire i mezzi tecnici adeguati per questa cosa. Allora, se noi stessi parliamo un linguaggio astruso, parliamo un linguaggio che si presta a mille interpretazioni, sì, diverse. Questo non aiuta. È chiaro. Non aiuta. Come le si può fare? Un esempio: se lei andasse a un congresso del suo ambito, della sua materia, in Azerbaigian, faccio per dire il primo posto che mi viene in mente, congresso internazionale, si aspetta che venga fatto in azero? No. Si aspetta che venga fatto in che lingua? In inglese. Stava a dire. Quindi noi medici per primi in tutto il mondo dobbiamo parlare l'inglese. E l'inglese in questo caso non è solamente una questione linguistica, è una questione di avere un codice comune, un linguaggio comune che permetta al giudice di avere sul proprio tavolo, nel momento in cui deve giudicare, non due consulenze che dicono una cosa e l'altra l'esatto opposto, sì, ma due consulenze che parlano in un linguaggio comune, chiaro, vincolato una volta per tutte da scuole, da ricordi affettivi, da trucchi, tricks, come li chiamava, sì, il consulente tecnico. Basta. Dottor Bagnoli, con queste cose. Uno dei temi centrali anche del libro è quello della medicina difensiva. Dice: queste vicende portano poi molti medici a difendersi, a prescrivere esami che sono inutili, ma proprio per evitare poi una causa successiva. Lei l'ha anche quantificata, 10 miliardi di euro l'anno ci costerebbe. No, non l'ho quantificato io, sono tutti dati che sono facilmente disponibili, ma circa l'1,5% del prodotto interno lordo. La mia adorata Radio 24 è per prima cosa una radio che si occupa di economia ad altissimo livello, per cui sapete benissimo, sì, meglio di me, cosa significano queste cifre. Ma perché un medico, cioè davvero ci sono medici che fanno esami, prescrivono esami inutili per... Oh cavolo, ci può scommettere? Provi a immaginare cosa vuol dire passare dal tritacarne di una giustizia in cui paradossalmente la parte penale non è neanche la parte peggiore, perché teoricamente, nonostante tutto quello che ho sopra, il processo penale ci si trova davanti a giudici come quello che io ho chiamato Rosario Buongiorno, in realtà ha un altro nome, che è arrivato preparatissimo sui temi del processo, che ha gestito il processo in modo spettacolare, alla ricerca della verità. Sì. Il vero problema è tutto il corredo che c'è intorno, assicurazioni. Noi non abbiamo più compagnie italiane che assicurano è chiaro. Lo sapete questa cosa? No, sì. Ma è chiaro, questo è quale compagnia assicurativa? Lo sapete che se io dovessi assicurarmi di primo rischio per il tipo di lavoro che faccio, che è un lavoro tecnicamente impegnativo, diciamo così, dovrei prendere una compagnia. Io sono sotto l'autoassicurazione del mio ospedale, ma se dovessi farlo io per conto mio, dovrei contrattare con una compagnia estera o forse con più di una compagnia estera un contratto per primo rischio che andrebbe attualmente come valore di mercato per il tipo di rischio che io sui 12-15 mila euro all'anno. Però dottor Bagnoli, tra l'altro questa medicina difensiva che costerebbe 10 miliardi di euro, poi si dice non ci sono i soldi per altre cure. Allora, siccome ci ha ascoltato con pazienza, vogliamo salutare anche Ivan Gardini, che è presidente dell'associazione Onlus EPAC. È questa la dicitura esatta, Gardini? Sì, va benissimo. Cioè i malati di epatite C. Sì. Perché ieri ci ha colpito questa storia sulla stampa di un italiano malato di epatite C che dice: sapete che c'è? Qui in Italia i farmaci sono costosissimi, non ce li danno. E quindi ci sono 150.000 non presi in carico da quindi da, noi, io sono da andato per questo in farmaco India, costosissimo. Lui è andato in India, spese sue, se l'è procurato rischiando anche dal punto di vista dell'importazione del farmaco, per essere chiaro. Perché il servizio sanitario ha 150.000 affetti a questa patologia, non è in grado di dire: io ti pago il trattamento. Allora, Gardini, sono due facce della stessa medaglia, no? Spendiamo 10 miliardi per medicina difensiva e poi ci sarebbero quindi questi soldi per i farmaci. Se no, ma l'elenco degli sprechi è molto più lungo. Il problema è proprio una decisione politica. Una decisione politica è di allocare un certo numero di risorse e dire che non ci sono i soldi per curare i malati di epatite C. Quando in realtà poi si dice che sono costose, ma secondo le informazioni che noi abbiamo costano una media dai 10 ai 15 mila euro al Servizio Sanitario Nazionale, al netto degli sconti, dei payback, di tutti questi meccanismi che ripuliscono poi alla fine il prezzo netto. Quindi non sono nemmeno cifre, come dire, no, l'AIFA ha fatto un buon lavoro di negoziazione. E perché c'è gente che deve andare in India, però? Cioè, lei ce lo conferma, ovviamente? Perché hanno deciso di mettere un blocco ai trattamenti e curare soltanto le persone più gravi, diciamo così. Una decisione comprensibile 2 anni fa, incomprensibile adesso, perché se soltanto rimuovessero questo blocco, i medici potrebbero programmare con i loro pazienti le loro terapie, perché se un medico dice a un paziente: guarda, non ti posso curare adesso, ma ti posso curare tra 6 mesi, 8 mesi, quello che è, il paziente non va in India. Il problema è che tu metti un paziente in un vicolo cieco perché gli devi dire: no, non te lo posso dare, lo Stato non te lo dà. Non abbiamo i soldi, la coperta è corta. Allora cosa fa il paziente? Prende, come dire, fa il suo viaggetto in India, torna indietro e guarda caso alla fine si cura. Ed è, ed è totalmente incomprensibile e incoerente una cosa. La storia che c'è sulla stampa di questo malato che dice l'Italia non mi ha preso in carico, il farmaco dicono è troppo costoso, ho preso, sono andato in India, lì il farmaco 2000 euro e mi sono curato. 2000 euro compreso il viaggio? Sì, certo, mi sono arrangiato mi sono arrangiato della fabbrica che sta in India di questa multinazionale, l'ha pagato poche centinaia di euro. Qua Bagnoli, per concludere, sono due facce della stessa medaglia, spendiamo 10 miliardi di lì e poi non ci sono soldi per curare. Bagnoli ci ha detto un punto e mezzo di PIL, 15-20 miliardi. Esatto, ci ha detto, ci ha richiamato 15, al nostro 15-20. Dovere. Bagnoli. Ma io credo che forse va rinegoziato proprio tutto quanto questo patto fra medici da una parte e il resto del mondo dall'altro. Io nel libro, modestamente, nei limiti delle mie modeste capacità, cerco di toccare un po' tutti i punti che ho visto essere critici, ormai quasi 26 anni che faccio questo mestiere, e provare a partire da noi stessi, noi medici, cioè ho messo per prime le nostre responsabilità proprio come segno di buona volontà, per non fare il solito piangina, mi verrebbe da dire interista, ma non lo dico, fare il solito piangina e cominciamo da noi, cioè cerchiamo noi di volare un pochino più alto, sì. Di eliminare tutti i riferimenti a scuole, consuetudini e del genere. Abbiamo dei mezzi, abbiamo un nostro inglese che non è linguistico, sì. Ovviamente è la medicina basata sulle evidenze che ci dà dei parametri veri e scientifici e su quelli basarsi, su quelli basarsi. Si fermi qui perché vogliamo ricordare Pietro Bagnoli, Reato di cura, lo trovate in libreria, un libro molto intenso, molto intenso, bellissimo libro che consiglio veramente a tutti. Allora, le ultime notizie, conferenza tribale dell'Organizzazione Mondiale Africana, perché il problema di come pronunciarsi sul referendum è stato posto ufficialmente dalla presenza dei turchi. Oggi si attendono i venusiani. Si esprimeranno sul sì o sul no. Io applaudo al sindaco Sala perché a Milano ha ricevuto il Dalai Lama fottendosene delle proteste della Cina. E bravo, ogni tanto bisogna riconoscere che si fa così, non come l'Italia che all'UNESCO sta zitta di fronte a questa terrificante cosa antisemita di dire che la spianata del Tempio non riguarda gli ebrei. Vergogna Italia. A domani.